America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The next contest for Democrats and for Republicans for that matter is on Tuesday in... Beh, torniamo alle elezioni, perché se la settimana scorsa c'è stata una piccola pausa dal punto di vista elettorale, questa settimana si ricomincia e si ricomincia domani dal Wisconsin. Ecco, dove siamo? Il Wisconsin intanto avrà un centinaio di delegati, quindi uno stato piuttosto importante, uno stato del Midwest. Trump, che si trovava in vantaggio, ha dovuto cedere il passo a Ted Cruz, che oggi guida nei sondaggi con il 40,2% delle preferenze contro il 33,4% di Trump. Kasich invece è al 18%, credo che insomma prima o poi dovrà scegliere di ritirarsi, questo personaggio politico importante, governatore dell'Ohio, che però non è riuscito alla fine ad emergere con forza rispetto agli altri due contendenti di testa. La partita elettorale americana, soprattutto in campo repubblicano, va avanti con l'obiettivo da parte dell'establishment del Partito Repubblicano di limitare le possibilità di Trump di avere delegati a sufficienza per poter garantirsi la nomination alla convention di Cleveland. In campo democratico, c'è stato un altro passaggio importante, perché mentre Hillary, sempre in Wisconsin, era in vantaggio su Sanders fino alla settimana scorsa con il 44,4% delle preferenze contro il 42% di Sanders, ha perso terreno. Gli ultimissimi sondaggi ci danno Sanders in vantaggio al 47,2% con Hillary al 45%. A New York, invece, uno degli stati importanti dove si voterà dopo il Wisconsin, Hillary, non dimentichiamolo, è stato senatore per 8 anni di New York ed ha il suo quartiere generale qui a New York, tra l'altro a Brooklyn proprio. Hillary è in testa, 53,5% contro il 42,5% del senatore del Vermont. Però, che cosa succede? Succede che Sanders è nato a Brooklyn e quindi sta facendo una campagna a tappeto per rivendicare questa sua appartenenza reale con radici profonde a New York. E ha avuto, tra l'altro, un evento a Harlem dove sono arrivate ben 18.000 persone, sono accorse ad ascoltarlo. E c'era anche, tra l'altro, il regista Spike Lee, c'era l'attrice Rosario Dawson. Dunque un successo possibile in divenire per Bernie Sanders, che ha detto letteralmente: se vinciamo a New York arriveremo alla Casa Bianca. Ecco, non so se questo poi possa corrispondere matematicamente a una possibilità, ma certo Hillary si indebolirebbe moltissimo. Ecco, torniamo a Trump, che sta cercando in tutti i modi di recuperare l'attenzione di quel pubblico di destra che si è un po' disaffezionato. Per esempio, ha lanciato una provocazione dicendo che nel momento in cui parliamo di aborto, le donne che faranno l'aborto, io vorrò abolirlo, dovranno essere punite se continueranno a farlo. Dunque una provocazione che certo non lo ha aiutato con il voto delle donne. Ma Trump ha fatto qualcosa di più, ha dato un'intervista al Washington Post dove ha detto che c'è un collasso economico in arrivo, insomma ha fatto, come dire, la Cassandra della situazione. Io conosco Wall Street, conosco i finanzieri, mi hanno detto che c'è un disastro, siamo nel mezzo di una bolla finanziaria, avremo un'altra caduta dei valori di borsa ben peggiore di quella del 2007-2009, solo io riuscirò a rimettere in piedi il paese. Il mio progetto è quello di ridurre di 19.000 miliardi di dollari il debito pubblico alla fine del mio mandato di 8 anni. Ecco, questo dato è un dato impossibile sia dal punto di vista tecnico che da quello matematico. Una gran quantità di economisti hanno reagito a questa intervista col Washington Post molto perplessi. Eppure è su questo che Trump riesce a capitalizzare, sulla sua grande capacità di dare un quadro fosco senza avere alcun fondamento concreto per poterlo confermare, e di presentarsi senza spiegare cosa poi farà, ma di presentarsi come l'unico possibile salvatore del paese. Vedremo se il Wisconsin lo ascolterà o meno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi propongo di Eminem, What's the difference? Eminem con Dr. Dre. Qual è la differenza? What's the difference between me and you? Me and you. You. What's the difference between me and you? Me and you. You. Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you, cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you, and that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is, and who I'm still cool with. Then I got these fake-ass niggas I first flew with, claiming they non-violent, talking like they spit venom in interviews, speaking on reunions. Move units, then talk shit, and we can do this. Until then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth, and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never do. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye, and get going.